Terzo anno. Capitolo primo. Windy Willows, Spokes Lane, 8 settembre. Mio caro, è già passata l'estate e non ci siamo visti che in un fine settimana di maggio. Sono tornata a Windy Willows per il terzo e ultimo anno al liceo di Summerside. A Green Gables con Catherine sono stata benissimo e quest'anno sentirò molto la sua mancanza. La nuova insegnante della seconda classe è un tipino pieno otto, roseo e festoso come un cuccioletto. Tutto qui. Ha luminosi occhi azzurri, del tutto inespressivi. Niente di più. Mi è simpatica e mi sarà sempre simpatica. Non ci sono scoperte da fare in lei. Ma Catherine era una miniera, se si riusciva a superare la sua diffidenza. Qui a Windy Willows nulla è cambiato, tranne una cosa. La vecchia mucca rossa ha raggiunto l'estrema dimora, come mi ha informato con aria triste Rebecca Dew quando sono scesa per la cena lunedì sera. Le vedove hanno deciso di non prenderne altra e compreranno latte panna dal signor Cherry, e così la piccola Elizabeth non verrà più a bere il latte fresco alla porta del giardino. A quanto pare, però, la signora Campbell ha accettato l'idea che la nipote venga da me quando ne ha voglia, perciò non è che faccia molta differenza. E sta maturando un altro cambiamento. Zia Kate mi ha detto, con mio grande dispiacere, che hanno deciso di dare via Dusty Miller appena troveranno da sistemarlo bene. Ho espresso le mie rimostranze, ma lei mi ha detto che sono costrette a farlo per quieto vivere. È tutta l'estate che Rebecca Dew si lamenta, e l'unico sistema per farla contenta sembra proprio questo. Povero Dusty Miller, è un gattone tanto vivace e affettuoso. Domani è domenica e baderò ai gemelli della signora Raymond che va a Charlottetown, ai funerali di una parente. La signora Raymond è una vedova arrivata nella nostra città l'inverno scorso. Rebecca Dew e le vedove di Windy Willows, Summerside è proprio un posto da vedove, la giudicano fin troppo elegante per Summerside. Ma è stata un validissimo aiuto a me e Catherine nella attività del centro di arte drammatica. Così adesso tocca a me farle un piacere. Gerald e Geraldine hanno 8 anni e un'aria angelica. Ma quando ho detto a Rebecca Dew che sarei andata da loro, lei ha storto la bocca, per usare una delle sue espressioni. Ma io adoro i bambini, Rebecca. Sì. I bambini, ma quelli sono pesti, signorina Shirley. La signora Raymond è dell'idea che non bisogna punire i bambini, qualunque cosa facciano. Vuole lasciarli vivere secondo natura. Hanno un'aria d'angioletti che inganna, ma senta quello che ne dicono i vicini. Un pomeriggio la moglie del pastore è andata in visita. Beh, la signora Raymond è stata uno zuccherino con lei, ma quando era sulla porta per andare via, dalle scale le è arrivata addosso una pioggia di cipolle e lei si è trovata senza cappello. Proprio quando li si vorrebbe buoni, i bambini si comportano in modo orrendo. È stato l'unico commento della signora Raymond. Quasi, quasi era fiera di quei figli impossibili. Vengono dagli Stati Uniti, sa. Come se questo spiegasse tutto. Rebecca, proprio come la signora Linda, ha poca simpatia per gli Yankee. Capitolo 2. Sabato mattina Ann si recò all'antiquata villetta, affacciata su una strada che finiva in aperta campagna, dove viveva la signora Raymond con i famigerati gemelli. La signora Raymond era pronta a partire. Il suo abbigliamento era forse poco adatto a un funerale e particolarmente il cappellino fiorito poggiato sui lisci capelli castani che le incorniciavano il viso. Il risultato complessivo era comunque apprezzabile. I gemelli di 8 anni, che avevano ereditato la bellezza materna, erano seduti sulle scale con il viso atteggiato a una bontà angelica. Avevano l'incarnato bianco e roseo, grandi occhi azzurri di porcellana e un'aureola di morbidi capelli biondi. Sorrisero con accattivante dolcezza quando la madre li presentò ad Ann. La signorina Shirley era stata tanto cortese da venire a prendersi cura di loro, mentre la mamma era al funerale della cara zia Ellie, perciò dovevano stare buoni e non farla inquietare nemmeno un po' da quei tesori che erano. I tesori assentirono con aria compresa, riuscendo, ammesso che fosse possibile, ad assumere un'aria ancora più angelica. La signora Raymond si fece accompagnare al cancello da Anne. «Non ho più che loro ormai», disse con tono patetico. «Credo di averli viziati un po'. So che molta gente lo dice. Ha notato, signorina Shirley, che la gente sa sempre come andrebbero allevati i figli degli altri? L'amore è meglio delle busse, non crede anche lei, signorina Shirley? Sono certa che a lei non daranno problemi. I bambini sanno sempre se possono o non possono approfittare di qualcuno, vero? L'anziana signorina Prouty, che vive qui nella strada, è venuta un giorno a tenerli, ma i miei poveri tesori non la sopportavano, perciò l'hanno fatta un po' ammattire. Lei sa come sono i bambini. Allora la signorina Prouty si è vendicata raccontando in città un sacco di fandonie sul loro conto. Ma con lei andranno d'accordo e saranno angioletti. Certo sono vivaci, ma è giusto che i bambini lo siano, non crede? A me fa pena vedere i bambini intimiditi. A me i bambini piacciono al naturale e a lei? I bambini troppo buoni non sembrano nemmeno bambini, non crede? Ah, non li lasci giocare con le barchette nella vasca da bagno o mettere i piedi nel laghetto, per favore. Ho tanta paura che si prendano un raffreddore. Il padre è morto di polmonite, sa? I grandi occhi azzurri della signora Raymond parvero sul punto di riempirsi di lacrime, ma il momento di tristezza venne coraggiosamente scacciato. Ah, e non si preoccupi se bisticciano un po'. Sa, tutti i bambini bisticciano, non è vero? Ma se un estraneo provoca uno dei due, apriti cielo! In realtà si adorano, sa? Avrei potuto portare uno dei due al funerale, ma non ne hanno voluto sentir parlare. Non sono mai stati separati in vita loro. E io non me la sento di sorvegliare dei gemelli a un funerale. Non si preoccupi, signora Raymond, disse Anne gentilmente. Sono certa che passerò una bella giornata con Gerald e Geraldine. Adoro i bambini. Lo so, appena l'ho vista ho capito che lei ai bambini vuole bene. Non è difficile da capire. Chi vuole bene ai bambini ha qualcosa di speciale. La signorina Prouty li detesta. Dei bambini cerca solo il lato peggiore e naturalmente lo trova. Lei non può immaginare quanto mi sia di conforto il pensiero che i miei tesori siano affidati a una persona che ama e comprende i bambini. Riuscirò persino a godermi la giornata. Perché non porti anche noi al funerale? Strillò Gerald, cacciando fuori la testa da una finestra del piano superiore. Perché vuoi divertirti solo tu? Oh, sono nella stanza da bagno, esclamò con tono tragico la signora Raymond. Cara signorina Shirley, li porti via di lì. Gerald, tesoro, sai che la mamma non poteva portarvi tutti e due al funerale. Oh, signorina Shirley, si è di nuovo legato al collo per le zampe e la pelle di coyote del salotto. La rovinerà. Per favore, gliela faccia togliere subito. Ora devo proprio andare, altrimenti perderò il treno. La signora Raymond si allontanò con un cedere elegante ed Anne corse di sopra. Trovò Geraldine che prese il fratello per le gambe e cercava di buttarlo giù di peso dalla finestra. «Signorina Shirley, dica a Gerald di smettere di farmi le boccacce!» disse irosamente. «Perché ti fa forse male?» chiese Anne con un sorriso. «Beh, a me lui le boccacce non deve farle!» ribatté Geraldine, lanciando un'occhiata feroce a Gerald, che gliela restituì con gli interessi. La lingua è mia e nessuno può impedirmi di tirarla fuori quando voglio. Vero, signorina Shirley? Anne ignorò la domanda. Bambini cari, tra un'ora si andrà a pranzo. Che ne direste di andare in giardino a fare qualche gioco e a sentire qualche storia? Gerald, vuoi rimettere al suo posto quella pelle di coyote? Ma io voglio fare il lupo, disse Gerald. Già, lui vuole fare il lupo, esclamò Geraldine passando a un tratto dalla parte del fratello. Vogliamo giocare a fare il lupo, esclamarono insieme. Lo squillo del campanello d'ingresso risolse il dilemma. Andiamo a vedere chi è, esclamò Geraldine. Volarono verso le scale e scivolarono giù per la ringhiera, arrivando alla porta prima di Anne. Intanto la pelle di coyote era finita miseramente a terra. Noi non compriamo niente dai venditori ambulanti, disse Gerald alla signora sulla porta. Posso parlare con tua madre? Chiese quest'ultima. No, la mamma è andata al funerale di zia Ellie, a noi bada la signorina Shirley. Eccola che sta arrivando, la farà filare via subito. Quando Quando vide di chi si trattava, Anne l'avrebbe davvero fatta filare via volentieri. La signorina Pamela Drake non era ben accolta nelle case di Summerside. Vendeva a domicilio i prodotti più disparati che di solito si era costretti ad acquistare per togliersela di torno. Dato che era refrattaria a rifiuti e promesse vaghe e sembrava avere a disposizione un tempo infinito, questa volta raccoglieva le prenotazioni per un'enciclopedia, strumento indispensabile per un insegnante. Invano Anne affermò di non avere bisogno di alcuna enciclopedia, poiché la scuola ne possedeva già una molto buona. Sorpassata di 10 anni, disse con piglio deciso la signorina Pamela. Sediamoci su quella panca da giardino, signorina Shirley, e le mostrerò il prospetto. No, mi dispiace, ma non ho tempo, signorina Drake. Devo badare ai bambini. È questione di pochi minuti. Intendevo venire da lei, signorina Shirley, ed è quindi una vera fortuna averla trovata qui. Bambini, andate a giocare mentre io e la signorina Shirley diamo una scorsa a questo magnifico prospetto. La mamma ha preso la signorina Shirley per badare a noi, disse Geraldine, scuotendo i vaporosi riccioli. Ma Gerald la tirò dentro casa e la porta si chiuse con un tonfo. Lei capisce, signorina Shirley, l'importanza di questa enciclopedia. Guardi la carta. Senta com'è fine. E le riproduzioni, splendide. Le altre enciclopedie sul mercato non hanno nemmeno la metà delle riproduzioni che ha questa. Una stampa nitidissima, potrebbe leggerla anche un cieco. E per soli $80. 8 subito e 8 al mese fino al saldo. Non le capiterà più un'occasione simile. È un'offerta promozionale, sa? L'anno prossimo ne costerà 120. Ma a me non serve un'enciclopedia, signorina Drake, disse Anne con la forza della disperazione. Ma certo che le serve un'enciclopedia, cara. A tutti serve un'enciclopedia. Un'enciclopedia nazionale. Non so come facevo a vivere prima di conoscere l'enciclopedia nazionale. Non era vita. Degettavo e basta. Guardi la riproduzione del casuario, signorina Shirley. Non le sembra di vederlo per la prima volta, il casuario? Ma, signorina Drake, io, se le modalità di pagamento le sembrano troppo gravose, credo di poter fare delle condizioni speciali per lei, dato che è un'insegnante. $6 al mese anziché 8. Lei non può rifiutare un'offerta del genere, signorina Shirley. Anne era tentata di crederlo. Non valeva la pena di spendere $6 al mese per sbarazzarsi di quella donna tremenda, evidentemente decisa a non andar via senza un ordine di acquisto. E poi cosa stavano facendo i gemelli? Il loro silenzio era preoccupante. Magari giocavano con le barchette nella vasca da bagno, o erano usciti di soppiatto dalla porta di servizio e ora sguazzavano nel laghetto. Compì un ultimo penoso tentativo di fuga. E ci penserò, signorina Drake, e le farò sapere qualcosa. Chi ha tempo non aspetti tempo, disse la signorina Drake, affrettandosi a prendere la penna stilografica. Dato che in fondo è convinta della necessità di prendere la nazionale, tanto vale che firmi ora. Non è bene rimandare le cose. Il prezzo potrebbe aumentare e allora dovrebbe pagarla $120. Firmi qui, signorina Shirley. Anne si trovò la penna tra le dita. Ancora un momento e. La signorina Drake lanciò un urlo tale che Anna lasciò cadere la penna stilografica nel cespuglio di pioggia d'oro ai lati della panca e restò a osservarla inorridita. Era davvero la signorina Drake, quell'essere indescrivibile senza cappello, senza occhiali, quasi senza capelli? Cappello, occhiali, toupé veleggiavano a mezz'aria in direzione della finestra del bagno a cui erano affacciate due teste bionde. Gerald reggeva una canna da pesca a cui erano assicurate due cordicelle con l'amo. Era un mistero con quali arti fosse riuscito a catturare tre prede insieme. Probabilmente era stata pura fortuna. Anna si precipitò in casa e quindi su per le scale, e quando arrivò nella sala da bagno i bambini non c'erano già più. Gerald aveva mollato la canna da pesca e, dando una rapida occhiata all'esterno, Anne vide la furibonda signorina Drake che stava raccattando i suoi averi, penna stilografica compresa, per poi avviarsi in gran fretta al cancello. Per la prima volta in vita sua, la signorina Drake non era riuscita a piazzare un ordine. Anne trovò i gemelli sulla veranda, sul retro, intenti a mangiare una mela con aria angelica. Era difficile sapere come comportarsi. Certamente un'azione del genere non poteva passare sotto silenzio, ma d'altra parte Gerald l'aveva salvata da una situazione difficile, E la signorina Drake era un essere odioso che aveva proprio bisogno di una bella lezione. Eppure. Ti sei mangiata un verme enorme, gridò Gerald. Te l'ho visto in bocca. Gerald immollò la mela e si mise subito a vomitare. Vomitare più non posso. Per un po' Ann ebbe il suo da fare. Quando Geraldine si sentì meglio era ormai ora di pranzo e Ann decise che era sufficiente un lieve rimprovero a Gerald. Dopotutto, la signorina Drake non aveva ricevuto un danno permanente e probabilmente nel proprio interesse avrebbe tenuto la bocca scrupolosamente chiusa sull'episodio. Gerald, ti sembra di aver agito da gentiluomo? Disse con dolcezza. Proprio no, disse Gerald, ma mi sono divertito un sacco. Come pescatore sono bravissimo, vero? Il pranzo era eccellente. La signora Raymond l'aveva preparato prima di partire e anche se come educatrice presentava molte carenze, era tuttavia un'ottima cuoca. Gerald e Geraldine, occupati a ingozzarsi, non bisticciarono e non si comportarono peggio di quanto si comportino di solito a tavola i bambini di tutto il mondo. Dopo pranzo, Anne lavò i piatti, convincendo Geraldine ad aiutarla ad asciugarli e Gerald a disporli per bene nella credenza. Si dimostrarono servizievoli e Anne rifletté con compiacimento che avevano bisogno soltanto di una guida sicura e di un polso fermo.